Buonasera, benvenuti al primo appuntamento del 2013 con Pan Rock City. Ci siamo dotati finalmente di una sigla. Era ora, dopo anni. Era ora, dai, per un po' sceglieremo questo codazzo finale dei film The Warriors, fatta da Joe Walsh, che non c'entra niente col punk perché lui suonava con gli Eagles, però In the City è il brano e noi è Pan Rock City, per cui ci sembrava carino anche il richiamo. Un po' una pellicola storica comunque. C'entra anche col nome Scolar le Bande. Esatto, c'entra anche col nome Scolar le Bande. E allora, potremmo partire subito con la prima proposta. Prima proposta che viene dal lontano 79, da un grande album di punk californiano. Noi andiamo ad ascoltare Rick El Rick, ex cantante di Negative Trend, famosi per Mercenaries, con questa splendida ballata punk Black and White. Razor's edge, man, never look E allora, Rick, El Rick, Black and Red. Sempre di 79 si parla, però andiamo in Scozia da un altro storico gruppo. Loro erano gli Skids, ci ascoltiamo la loro Into the Valley. Oh, grande scelta, gli Skids erano 79. Un po' che non li ascoltavo, esatto, grandi Skids che li vidi anche a Londra. Era gli anni proprio. Skids, quindi nostalgia. Nostalgia, del è vero, punk, è vero. Punk fu. Skids Into the Valley era un gruppo abbastanza seguito in quel periodo, un gruppo atipico, forse uno di quei gruppi spartiacque che anticipava poi l'arrivo in modo massiccio più della New Wave. Noi rimaniamo sempre nel 79, siamo legati a questo periodo, in questo momento. Andiamo ad ascoltare un gruppo di surf punk, loro erano i The Crowd, e questa è la loro Susie's a Surf Rocker. To be a star, spill your name in the search for fame. She'll never confess, and never surrender. She'll never confess, she does not the rest. Susie is a surf rocker, no one that I know can top her. Susie is a surf rocker, no one that I know can stop her. Anyone with dare, she doesn't care. It was a crime. My life was on a line. She will never confess. I never can live. She'll never confess. She does not the rest. Susie is a sucker. I know one that I know can stop her. Susie is a sucker. No one that I know can stop her. E allora dunque, Susie's Surf Rocker dal lontano 1979 erano i The Crowd, e noi la dedichiamo alla nostra Susie, però la nostra Susie è più una Red Wine Rockers che una Surf Rocker. E come annunciato già oggi durante la trasmissione pomeridiana di Cianotti Time a Panrossiti, questa sera avremo anche ospiti Totale Apatia che faranno qualcosina in acustico. Appena entrati, ma se ascoltiamo con un pezzo così si preparano. Rimaniamo sempre nel 79, credo, non sono così sicuro. Abbiamo parlato. Aspetta, ci hanno dimenticati proprio di cambiare il CD, quindi mi sa che. Vado io con una proposta che dovremmo dedicarla anche a Gigi. Ha fatto una richiesta speciale di questa band, e sempre rimaniamo in quegli anni e in Inghilterra. Loro sono i The Cravats, questa è la loro Gordon. We'll be right back. E dunque questa era In The City, era un brano dei Jam, risale al 1977, e abbiamo qui dei Baldi Ceffi di Verona Nuova che risalgono al 2013. E va bene, Totale Apatia, un paio di parole prima di entrare sull'EP. Ciao a tutti, grazie per averci ospitato per promuovere appunto questo nuovo EP sempre al top, Totale Apatia, uscito a dicembre 2012. Il lavoro precedente che data aveva? E il lavoro precedente era datato 2009, quindi era passato un po' di... Sì, un paio d'anni, insomma, dove abbiamo ritrovato alla chitarra il nostro amico Daniel. E certo. E abbiamo recuperato anche Pablo, quindi con una formazione a 5 con cui non ci siamo mai esibiti prima. Insomma, un nuovo episodio della sagra Totale Apatia. Va bene, che andranno avanti per un bel po', ma qualche parola su questo EP, il titolo? Il titolo appunto è sempre al top. Esatto. È stato comunque autoprodotto, abbiamo stampato realmente poche copie, tipo 100 copie da distribuire. Speriamo che, anche se... Mi ricordo I Wanna Live in London. Infatti poi, se è possibile, magari facciamo ascoltare anche quella. Certo, certo. Allora, cosa... Procediamo con qualcosa in acustico? Abbiamo pensato appunto di partire con un progetto acustico alle due chitarre, appunto Pablo e Daniel, con un pezzo tratto dal Sentiero da Trovare, il titolo è Niente Più Lacrime. Buon ascolto. Va bene. Buon ascolto a tutti. Volte ho pensato al mio passato e non ho fatto altro che piangere. Ora che mi trovo in un buon punto della mia esistenza, sto ancora cercando il perché. Niente più cioccolatini, niente giochi per bambini, questa ora la mia vita è chiuso nel mio ghetto, senza nemmeno un tetto, il mio futuro è solo lacrime. Spalle al muro mi ritrovo condannato a vivere in questa realtà, fatta ancora adesso di sporchi ideali, pregiudizi e falsità. Niente più discorsi in piazza, una sola classe, una sola razza, nessun invasore che avanza. Niente stragi di bambini, ora solo cioccolatini, non ci saranno più lacrime. E poi ci ritroveremo tutti felici, sotto ad un parco a cantare. E poi tutti insieme uniti decideremo, niente più lacrime, yeah. Ecco dunque, beh, non avevo mai sentito i Totale Apatia in questa versione Crosby, Stills, Nash & Young, è vero, mi sembra di tornare a Chicago, Four Way Street, quegli album lì del grande folk rock americano, veramente interessante. E quest'anno siamo tornati dopo 15 anni di on the road, esatto, strada, in giro per concerti. Esattamente, stiamo, vogliamo ricordare qualcuna delle prossime date? Adolescenza praticamente. Esatto, e siete ancora dei giovani capretti adolescenti voi. Ricordiamo i prossimi eventi imminenti questo venerdì per tutti gli amici. Venerdì Brescia, 11 gennaio, della, esatto, base bassa bresciana, insomma una festa, ma appunto per tributare ancora la presenza di Daniel, ci sarà ancora anche a lui, al The Drunks, un pub di Pontevico. Ad aprire la serata ci saranno un gruppo di sole ragazze che meritano le Revolution 9. Sì, sì, conosco la band in questione. E niente, dai, il giorno seguente. E invece con i Milk 103 dov'è? Era appunto lì, ma non era lì, ah, ho capito, i Milkshake 103, vero? 103, sì, anche loro, esatto, ragazzi della bassa bresciana. Dopodiché? Dopodiché il giorno seguente saremo il 12 gennaio al Firmore. Questo è con i Pancreas. Con i Pancreas, ci saranno anche i Bravi Tutti, un gruppo piacentino in apertura. Dopo ci vediamo il 26 gennaio al MU a Parma in un festival con Erode e altri gruppi, dove la, esatto, il 26 gennaio sia molto in tema, però farete daremo... in acustico lì? È una bella sfida, come mai in acustico in mezzo a un festival? No, non credo. Faremo nulla in acustico, no. Dopodiché quindi in terra bresciana, chi lo sa? Bresciana, si spera poi di sicuramente siamo qua alla radio per fare una serata, sicuramente ci metteremo d'accordo al magazzino per vivere ancora un po' di storia, beh sì, c'è qualcosa al fuoco, magari un ritorno al latte, più magari con porno riviste, un ritorno al magazzino in un altro contesto, sì, potrebbe essere. Allora partiamo con un altro acustico, cosa ci fate ascoltare? Partiamo subito così. La presenti tu, Daniel, il tuo pezzo? Sì, questo qua viene dall'ultimo EP, appunto, sempre al top. È una canzone che, come posso dire, è un augurio alle nuove generazioni, a cui che non dimentichino cosa hanno dato quelle vecchie, però che riescono a vedere qualcosa di nuovo in un futuro, non solo facendo i vecchi passi e non scartandoli neanche del tutto, naturalmente, perché non tutto è sbagliato e non tutto è giusto, insomma. La chiamata della terraferma. Cominciamo, Paolo. Dai. Guardo intorno, non so neanche dove cominciare, se da quel lungo sentiero o dalla statale. So che la strada che prendo la devo vivere, e allora Daniel, fermati un attimo, se non sai cosa credere. Credi un pensiero sbagliato, forse dato da mia madre e mio padre che mi hanno iniziato. Credi, ma ne vale la pena. E a volte il flusso che mi strappa a questa scena, e deve esserci una scintilla che fa ardere il tempio, e non serve il grande guru a darmi l'esempio. Passano i giorni e passano i mesi, Gli anni non li conto perché sono coltelli in questo mito a fluttuare che non poggio mai i piedi. Terra ferma chiama, esci dai tuoi pensieri. Terra ferma chiama, esci dai tuoi pensieri. Dopo un lungo dormire sembra tutto strano e non riesco a capire. C'è una luce splendente proprio là in fondo. Stavolta non perdo l'occasione, amici miei, stavolta la colgo. Credi un pensiero sbagliato, forse dato da mia madre o mio padre che mi hanno iniziato. Credi, ma ne vale la pena. E a volte penso che mi strappa a questa scena. E deve esserci una scintilla che fa ardere il tempio. E non serve il grande guru a darmi l'esempio. Passano i giorni e passano i mesi. Gli anni non li conto perché sono coltelli in questo mito a fluttuare che non poggio mai i piedi. Terra ferma chiama, esci dai tuoi pensieri. Terra ferma chiama, esci dai tuoi pensieri. Terra ferma chiama, esci dai tuoi pensieri. Terra ferma chiama, esci dai tuoi pensieri. Beh, notevole. Questo è presente su Sempre al Top. Io ho finora nelle mie forma acustica. No, esattamente, infatti io sono curioso di sentirlo anche in forma elettrica questo brano. E le andremo ad ascoltare dopo in forma elettrica, perché ho già suonato un paio di brani durante le mie trasmissioni pomeridiane, però non questo. Direi ottimamente riuscito in acustico questo. Sì. No, sì, ben sì. Infatti diciamo anche i ragazzi comunque hanno esperienze alle spalle in progetti acustici, chi con Compa de Amigo, chi con V-Power anche comunque. Esatto, mi ricordo. No, per cui perfetto, va bene, altro brano, altro giro. Ma così il sole, no? Di Krishna, no? Facciamo anche il sole. Dai. Questo qua è una traccia nascosta che era presente nel sentiero da trovare, datato che 2007 il sentiero 2004 ah. Sì, sì. E perciò il sole di Krishna G. Sì, sì. Ok. Avete mai visto con due occhi nuovi e così bruciare questa falsa distanza tra noi e il mondo? Forse i passeri che volano ti stanno a guardare come tu guardi loro e non c'è nessuna distanza tra te e quei monti, tra te e quei monti, senza alcuna forma di imposizione. Il fiume trova il mare, io trovo la libertà. E senza alcuna forma di imposizione. Il fiume trova il mare, io trovo la libertà. quando camminiamo in mezzo all'erba e guardiamo quei fiori gialli. E sono lì solo per farsi vedere e continuano ad essere come noi, parte di un insieme che è così grande è impossibile perdersi, perché tutto conduce alla propria libertà, alla propria libertà, senza alcuna forma di imposizione. Il fiume trova il mare, io trovo la libertà, e senza alcuna forma di imposizione. Il fiume trova il mare, io trovo la libertà. Il fiume trova il mare, io trovo la libertà. Il fiume trova il mare, io trovo la libertà. Guarda il sole cade, lui si muore a questa spiaggia, a questo amore. Guarda il sole cade, lui si muore a questa spiaggia, a questo amore. Na na na na na na na. E dunque erano Penetration, così abbiamo staccato dall'acustico dei Total Apatia con Penetration da Moving Targets, noi abbiamo ascoltato Silent Community. Allora torniamo con i Total Apatia e abbiamo qui l'EP sempre al top. Allora che cosa andiamo ad ascoltare? Ma si può andare ad ascoltare appunto per staccare un attimo dall'acustico di prima, magari se sei d'accordo, subito il singolo Mille All'ora. Mille All'ora, traccia numero? Traccia numero 6 dell'EP. Ok. E dunque, Mille All'ora, la traccia numero 6 di Sempre al Top, dei Totale Apatia. L'unico pezzo punk hardcore dal quale abbiamo appunto estrapolato un videoclip girato con la regia di Andrea Bignami, un saluto anche ai Force Horizon. E niente, poi per il resto abbiamo comunque, gli altri pezzi sono tutti comunque cantati in italiano, a parte un episodio per la prima volta con un ritornello in inglese. Che era il brano che volevi dedicare? Il brano che volevo appunto dedicare sia a un amico che ha vissuto un'esperienza comunque appunto a Londra. Un amico che adesso ha le stampelle. Esatto, esatto, l'ho visto sabato, esatto. Nessuno lo sa, però appunto ha scelto di andare a un concerto punk con le stampelle, giustamente per star tranquillo. Quindi il pezzo è Wanna Live in London, il primo dell'EP Sempre al Top, appunto. I'm I Wanna Live in London, dunque, ecco. Per restare appunto a tu, la Ciano, hai vissuto la tua adolescenza? Adolescenza, insomma, c'è un po' di anni. È un po' un mito la città dove tutti cercano lavoro, cercano di... Ma no, direi che come capitale europea, a pari di Berlino, è un posto che presenta un sacco di offerte alternative, soprattutto musicali, e anche in ambito lavorativo, secondo me, se ti adegui al momento trovi ancora da fare qualcosina, cosa di, che invece qui sembra un miraggio impossibile, anche andare a lavare i piatti. No, direi che Londra, forse perché è così grande, così multietnica, offre ancora delle possibilità. Esatto, e poi comunque la musica... Torneremo e sarà un popolo di emigranti. Esatto. Ci trasformeremo tutti a Londra. Esattamente. Vuoi proporre un altro brano in elettrico da questo? Ma se si può fare, sempre al top, appunto il titolo del nuovo EP. Esatto, è il brano numero? Numero 3. Allora, sempre al top, appunto, da sempre al top. Da sempre al top, per testimoniare, se possibile, che noi anche nel nostro piccolo, come un po' tutti, cerchiamo di fare il nostro meglio, di essere sempre al top, anche se passano gli anni e comunque... Gli anni passano, è vero. Per tutti. Va bene, ora come di consuetudine per gli ospiti, un paio di proposte musicali, cos'è che ci proponi? Ma vorrei proporti gli Ma prima presentiamo i membri del gruppo, band, insomma, la band al completo. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto dal Ringhio, grazie a tutti per essere stati con noi. C'è qua il bassista Cresta. Johnny Cresta. Johnny Cresta, Pablo alla chitarra, ciao. Solista, e Dani. Ciao, grazie. E Dani. Ciao, ciao. E niente, gli FFD che anche a loro festeggiano, mi pare, addirittura 20 anni di attività tra, e comunque lunga vita all'anarchia che loro professano. Va bene. Ancora. FFD. Sì. Questo brano è dettato dal disagio. Guarda la merda che ci circonda. Guarda lo schifo che c'è in giro. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah si accontenta. Noi stiamo con i Black Bloc e la tifoseria violenta. Nel far west siamo fuori legge, delle bombe non siamo le schegge. Tra i violenti l'istituzione, anarchia per la patria e la nazione. Se sarà un sogno, tu chiama l'utopia. Giustizia e libertà, noi siamo per l'anarchia. Creare, organizzare contro il potere. Internazionalisti contro le camicie nere. Nel far west siamo fuori legge. Delle bombe, noi siamo le schegge. Tra i violenti l'istituzione. Anarchia per la patria. Quel che siamo e nessun ci cambierà. Inculavo i bigotti e chi ci giudica. Fanculo agli snob e tra voi ce ne sono tanti. Fanculo pure a noi, a fanculo a tutti quanti. Nel far west siamo fuori legge. Delle bombe noi siamo le schegge. Tra i violenti l'istituzione. Anarchia per la patria e la nazione. Nel far west siamo fuori legge, delle bombe non siamo le schegge, tra i violenti l'istituzione, anarchia per la patria e la nazione. E dunque questi erano gli FFD, adesso stacchiamo con una proposta di Simone. Cos'è che ci fai ascoltare? Vabbè, visto che stiamo facendo tutto italiano, andiamo un attimo a Londra, sempre gli anni che furono, quelli del 77 appunto. Ci ascoltiamo i Larkers, che sono passati anche dalla festa di Onda d'Urto, dal loro singolo del 79 ascoltiamo Little Old Wine Drinker Me. Eccoci qui dunque, Little Wine Drinker Me, loro erano dell'Arcas, singolo del 1979. stiamo per giungere alla conclusione. Esatto, abbiamo 7 minuti prima di passare a Desert Caravan, musica per stati alterati, è tutto un bel programma. Ricordo. Cos'è che ci proponi? Guarda, innanzitutto appunto vi ringraziamo ancora, certo, per l'ospitata. Ti ricordo gli ultimi due appuntamenti appunto imminenti: venerdì in Bassa Bresciana a Ponte. Venerdì 11 Arancia, gennaio. Venerdì 11 gennaio, il giorno dopo il Fillmore con i Pancras, e bravi tutti. Magari ci salutiamo con un pezzo, una proposta dedicata appunto ai miei colleghi lavorativi, un periodo un po' magro di crisi per tutti. Ricordiamo, tu lavori nel settore delle biciclette. Di bicicletta, quindi ci è tornato alla mente un brano tratto da addirittura una cassettina quando ancora c'era la mia bicicletta degli Impossibili, anni 90, punk rock. Va bene, Gli Impossibili, La mia bicicletta. Idiota, fascino vissuto, copertoni consumati, con l'asfalto al combattuto, alle cromature ho dato l'ultima lustrata, un po' d'olio alla catena che non è lubrificata. Prima di sfrecciare col cavallo a due ruote, metti i pantaloni con le tasche rattoppate, gli stivali, i giubbotti, gli occhiali da indossare. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, arrivi lentamente, sei bella come sempre, i tuoi occhi di ardiero son pazzo di te. Sei come la mia bicicletta, proprio come lei, andiamo a farci un giro così te io ci starei. Sei come la mia bicicletta, proprio come lei, andiamo a farci un giro così te io ci starei. Finalmente soli io e te in mezzo al prato, quando arriva una moto grossa come un carro armato. Non ho ben capito poi che cosa sia successo, sei scappata dietro lui e sono rimasto come un fesso. Ma tu certamente sei bella come sempre, i tuoi occhi verdi e io son pazzo di te. Sei come la mia bicicletta, proprio come lei, andiamo a farci un giro così che io ci starei. Sei come la mia bicicletta, proprio come lei, andiamo a farci un giro, io ci sarei. Andiamo a farci un giro, forse te io ci sarei. Andiamo a farci un giro, forse te io ci sarei. Ed erano Gli Impossibili con La mia bicicletta. Avanti veloce che abbiamo quasi finito, ascoltiamo Descendants, Original Me. Reflection. E siamo arrivati alla fine. Dopo i Descendants non potevamo che ascoltarci gli Hole con un pezzo sparatissimo, velocissimo, che si chiama She Broke My Dick. Niente, ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo. Esatto, Pangro City vi dà appuntamento lunedì prossimo dai microfoni di Radio Onda d'Urto dalle 21 alle 22 ed ora Desert Caravan. Bye. She broke my dick. Getting on my dick. I swear this really happened. I pulled my trick maneuver. That's when I heard it snapping. She broke my dick. She got down from my dick. Ever since I met her, my life's been on the rocks. Cold as fact and he found the bandage for mine. She broke my dick. She got down from my dick. Mind if I leave the needle in?